Ad alta voce, Ferdinando Bruni legge L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini. Il ritorno del segretario e del canottiere da Napoli fu una nuova sorpresa. Giunsero il mattino seguente, dopo aver viaggiato tutta la notte, e si precipitarono in tassì alla Virtus. «Eneo! Dov'è Eneo?» gridò il segretario, prima ancora che l'auto fosse ferma, al padre di Berto, che si era affacciato udendo il rumore. Poi, seguito dal canottiere, corse nella saletta della direzione a telefonare al presidente, mentre il tassì rimaneva fermo davanti alla passerella, quasi dovessero ripartire subito. «Cos'è successo?» domandò più tardi Ario a Berto. «Non si sa niente di Eneo», rispose Berto, e guardava altrove per schivare il suo sguardo. «Ma come? Non era a Napoli?» «Pare di no», troncò Berto, e si mosse. «Come pare di no?» lo seguì Ario. «Non erano andati a Napoli assieme a lui, il segretario e il canottiere?» «Ma no, e non seccarmi. Lo sai bene che loro due lo avevano preceduto di alcuni giorni. Erano partiti con lo skiff». «Lì a Napoli?» gli alzò all'improvviso gli occhi in faccia, mostrando due pupille dilatate, serie e anche stupefatte, in cui brillava come una luce interrogativa, quasi volesse farsi spiegare lui qualcosa da Ario. «Lo hanno atteso a tutti i treni e hanno telefonato a tutti gli alberghi sino all'ultimo momento e persino dopo le regate. Ma Eneo non è giunto, dicono». «E ora?» «Ora lo cercano qui», concluse Berto. «Ma nessuno l'ha veduto in questi giorni, né in porto né in città, e sembra che non ci sia neanche oggi. Il segretario ha già telefonato alla società dei rimorchiatori e gli hanno risposto che Sigon è in licenza». Aveva parlato quasi con orgasmo, ma a questo punto tacque, come pentito, e sbirciò due o tre volte Ario. Poi fece di nuovo per andarsene. «Io credo», disse guardando a terra, «che deve essergli successo, se non proprio una disgrazia, qualcosa di serio». E infilò l'andito scuro che portava alla doccia. Lidia, quei giorni, girava per i ballatoi in un vestitino azzurro. Pareva occupata tra sé e non badava a nessuno. Ad Ario sembrò anche più snella e leggermente smunta in viso, come più fine in tutto, dalle movenze alle mani curate. «Sì», pensava, «è un tipo assai diverso da Berto, quasi fosse figlia di signori». E la seguiva con lo sguardo. Desiderava avere occasione, come un tempo, di fermarsi con lei. Ma Lidia, quando si incontravano, lo salutava appena con un cenno del capo e con un sorriso, più degli occhi, che socchiudeva leggermente, che delle labbra, e passava oltre. Ario si sentiva crescere il respiro e gli mancava il coraggio di dire qualcosa. Lidia era adesso un'altra, seria, non indossava neanche più il costume da bagno ed egli non sapeva come avvicinarla. Avrebbe dato non sapeva che cosa per tornare indietro, solo di poche settimane, ai giorni quando gli si sedeva accanto sul ballatoio e gli faceva quelle domande. Riudiva la sua voce. «Ti piacerebbe baciarmi?» E il cuore gli balzava in gola. Era sicuro, ora, che Lidia non poteva essere la figlia del padre di Berto. Glielo vedeva in faccia e in tutta la persona. Credeva, dunque, completamente all'ultimo racconto di Berto. Anzi, credeva di più. Credeva anche a ciò che aveva saputo più tardi da sua madre. Che era figlia non si sapeva di chi. Però, vedendo Lidia così riservata e quieta, non riusciva a riconoscere in lei la ragazza dei racconti spudorati di Berto. Gli bastava guardarla in certi momenti per non credere a nessuna delle altre cose che gli aveva narrato Berto. La scena dell'esame non si adattava, per quanto ci pensasse, in nessun modo a lei. Era soltanto un'invenzione pazza del fratello. Seguendola con lo sguardo, anche da lontano, dal proprio pontone, nelle ore in cui doveva trattenersi lì, sentiva come una trepidazione lunga. Avrebbe voluto esserle accanto e non dire nulla. Era bello stare assieme e tacere assieme, vicini. Sentiva a tratti anche una trepidazione più forte e avrebbe voluto allora fare qualcosa per lei. Quasi soltanto lui, che la conosceva ormai in tutto ed era come lei senza padre, potesse e dovesse difenderla. Sì, avrebbe voluto fare qualcosa, al più presto, quasi ci fosse un pericolo a tardare. Ma non sapeva. Non riusciva a trovare che cosa potesse fare per lei. Un giorno, pensava, ed era l'unica cosa che sapesse decidere, le dirò di imbarcarsi con me. Andremo via, non importa dove. Era contento, intanto, che ella non stesse più coi canottieri, che passasse per la zattera e per i ballatoi, svelta, evitando di fermarsi. Le era grato di ciò, quasi lo facesse per lui. Un mattino si decise. Oggi la fermo e le parlo. L'accompagno quando esce. Nel pomeriggio, appena uscita sua madre, pregò a uno dei ragazzini della caserma di restare sul pontone in sua vece e cominciò a prepararsi. Si vestì meglio che poté, calzò le scarpe, si bagnò i capelli e si pettinò. Poi stette a spiare da una delle finestrelle del camerone verso la Virtus. Le scarpette bianche di Lidia, pulite e messe ad asciugare sul ballatoio, erano sempre lì, segno che ella non si vestiva ancora. Era troppo presto. Nel timore di far tardi, si era preparato quasi un'ora prima. Finalmente le scarpette scomparvero. Poi la intravide nell'inquadratura della finestra di rimpetto. Si ravviava i capelli rapida, con pochi tocchi di pettine, leggeri, e si tingeva le labbra. Quando apparve sulla passerella, in quel vestitino azzurro, egli fu in un balzo sul molo. La raggiunse. «Oh!» fece lei. «Dove vai così bello?» E lo esaminò sorridendo da capo a piedi. «Vengo con te. T'accompagno». Lidia lo guardò sorpresa e non rispose. Camminarono a fianco ed egli non sapeva più cosa dirle. «Beh!» esclamò lei quando furono alla fine del molo. «Dov'è che vai?» «Ti saluto». «Ma», rispose Ario diventando di fuoco, «vengo con te, volevo...» «Vieni con me?» lo guardò seria. «E perché?» «Perché... così... non siamo amici?» «Amici?» si voltò lei. «No, non lo siamo mai stati». E fischiettò tra i denti, guardando altrove. «Ciao», gli disse poi. «No, senti, io», balbettò lui, «ero venuto per questo. Ti ho aspettata. Volevo uscire con te. Devo dirti...» «Che devi dirmi?» «Tante cose», esclamò. E in quel momento gli parve davvero che le avrebbe parlato a lungo. Non sapeva neanche lui di che cosa, con lo stesso impeto con cui ora cercava di persuaderla. «Ma lasciami venire con te». «No», troncò lei. «Cosa ti salta in mente?» E tornò a fissarlo seria, quasi severa, mentre ad Ario quell'impeto si gelava in petto. «Non ti accorgi come sei?» «Come sono?» domandò, e la voce gli uscì appena, rauca. «In calzoni corti, non ti vedi? Sei ancora...» Non ascoltò più. Tornò indietro con la gola gonfia e le lacrime agli occhi. Davanti alla passerella della Virtus trovò fermo un camioncino con lo skiff di ritorno da Napoli e non capì quando fosse giunto. Mentre era con Lidia sul molo, non l'aveva visto passare. Chiuso nella stessa gabbia di assi chiare in cui era partito e che appariva adesso sudicia, con lunghe striature nerastre, piena di etichette grossolane e lacere e macchiata di colla e di unto, lo skiff rientrava nella canottiera in un modo che a Dario fece pena. Nessuno era lì ad accoglierlo. Nessuno si fece innanzi per tirarlo giù dal camioncino. Lo scaricò Berto, col solo aiuto dell'autista. Ario stette a guardare, inerte. Una frase non lo lasciava più. In calzoni corti. Sì, pensava, sono in calzoni corti, ancora in calzoni corti. Dove va a quest'ora? Rialzò il capo. Dove vuoi che vada? Si voltò Berto reggendo lo skiff assieme all'autista. Lo portiamo in rimessa. Ma no, balbettò Ario arrossendo e guardò verso le rive. Ah, fece Berto, Lidia vuoi dire? A ballare, dice. Tornò a casa. Pensava a Lidia, sebbene lo avesse umiliato, quasi senza rancore. Si sentiva indispettito piuttosto per qualcos'altro e con sé. È colpa mia, si diceva, se mi ha risposto così. Non era stato lui il primo a trattarla male? Si ricordava di quel giorno che gli era venuta accanto sul ballatoio ed era stata l'ultima volta. Non siamo amici? Gli aveva domandato, vedendo che egli ostentava di non badarle. No, aveva risposto lui, non lo siamo mai stati. Ed ecco che lei oggi gli aveva risposto con le stesse parole. È colpa mia, si ripeteva, è tutto colpa mia. E gli pareva, appunto per questo, di poter rimediare. Lidia, in fondo, gli era amica. Bastava farle scordare come l'aveva trattata quel giorno sul ballatoio. Ma forse non occorreva neanche. Ormai s'era sfogata. Un puntiglio. Ora tutto si schiariva. Cominciò anche a pensare ai calzoni lunghi. Berto li ha. Non li indossa quasi mai, perché sui pontoni si sta meglio così o in mutandine da bagno. Ma se vuole mettersi quando esce, li ha. Ecco, era questo. Sebbene gli paresse di non serbare rancore a Lidia, quell'osservazione, in calzoni corti, non cessava di bruciargli. Era irritato con sua madre, che non gli aveva ancora fatto un paio di calzoni lunghi, e con sé per non aver preteso di averli, come Berto. Trovò, quella sera stessa, il coraggio di parlarne a sua madre non appena fu rientrata. «In calzoni lunghi?» lo guardò lei di sbieco, e tralasciò di lisciarsi sui fianchi il vestito che le era risalito in tante piccole pieghe. «Perché? Vuoi già andare a donne?» Quell'allusione, che non si aspettava e che lo fece avvampare di vergogna per sé e per lei, gli impedì di insistere. Fu lei, tuttavia, a riparlarne quando rientrò in cucina dal camerone, ove era andata a svestirsi. «Calzoni ne avevo», disse, «di quel porco vigliaco di tuo padre». Ma in questi anni ci ho dato fondo io qui sul pontone. È una scusa, pensava Ario. Non vuole che mi faccia uomo. Se non le restano più calzoni, perché non me ne compro un paio? Soldi ne ha. Le aveva veduto, giorni prima nel cassetto del comodino, e gli era parso di travedere una manciata di banconote, molte piccole, ma alcune da 50, gualcite come se le avesse tenute a lungo in mano. Rientrando, doveva averle buttate là. E là rimasero anche i giorni seguenti, anzi, crebbero. Di Eneo, alla Virtus e in tutto il Mandracchio, non si sapeva ancora nulla. «Sarà finito a Roma», aveva sussurrato qualcuno, «in un albergo con qualche dama». «A Capri, a Capri», intervenne uno che aveva trascorso qualche giorno in quell'isola. «Eneo è un toro per quei posti là». Quella settimana tornò dalle regate di Como l'armo a 8, tra cui c'erano 2 o 3 del gruppo contro cui si era sfogato Ario il giorno delle regate di Napoli. Si erano classificati secondi, magnificamente, tanto da annullare quasi la vittoria dell'armo che li aveva battuti superandoli soltanto di alcuni centimetri. Erano partiti con poche speranze. Alla Virtus si attendeva di vederli ritornare esultanti. Tornarono invece inquieti, esaltati. Non si capacitavano di non essere giunti primi. «Per mezza pala», dicevano, «per mezza pala di remo non abbiamo vinto». Quel successo rianimò tutti, tranne loro. «Quest'anno secondi», si diceva, «e secondi per modo di dire, perché in realtà hanno vinto alla pari, e la prossima estate primi. Ecco il modo di fare le cose, commentò il segretario, che non li aveva neanche accompagnati a Como. Che armo e che lezione per Eneo. Proprio quei giorni cominciò a circolare la voce che Eneo era ritornato. Ma alla Virtus non si fece vedere. Trascorse la settimana ed egli non ricompariva. Sul pontone vibrava un'aria tesa. Infine, l'esasperazione di tutti, sebbene ostentassero di non fare più neanche il suo nome, giunse al colmo. «Verrà almeno, farabutto lui e mona chi gli ha creduto!» gridò all'improvviso un canottiere anziano, diventando rosso sin nelle vene degli occhi al solo sentirlo nominare dal piccolo timoniere, e sputò due o tre volte. «Verrà almeno a restituirci i soldi!» «Quali soldi?» gridarono facendoglisi attorno. «Ma quelli che ha avuti per il viaggio, eh?» «Eh?» incalzarono da più parti, facendoglisi più vicini. «E quelli?» Il canottiere parve imbarazzato e si guardò alcune volte in giro, come per assicurarsi se non appariva qualcuno. «Beh, quelli per le spese, insomma!» Non occorse altro. Tutti alla Virtus e poi nel Mandracchio furono sicuri che Eneo si era fatto sovvenzionare per mesi dalla direzione. Se ne discorreva prima sottovoce e poi apertamente dappertutto. Eneo, frattanto, non ricompariva. E quell'assenza dopo l'episodio di Napoli pareva confermare ciò che si andava dicendo. Nel Mandracchio, l'Empedocle andava e veniva, usciva per il lavoro e rientrava. Ario, però, per quanto stesse allerta, non riusciva a scorgere Eneo. O non era a bordo, o si teneva nascosto giù, tra le macchine. Ogni giorno, d'altronde, qualcuno portava sue notizie. Chi diceva di averlo veduto qua e chi là, ma stranamente sembrava lo avessero soltanto intravisto, di lontano. Nessuno aveva parlato con lui. «Un mantenuto! Ecco quello che è!» scoppiò un mattino un canottiere, e tutti fecero segni di assenso. «Non sente neanche il dovere di venire a spiegarsi o a restituire i soldi. Ma quelli, per Dio, glieli faremo sputare!» Sul suo conto si sussurrava continuamente qualcosa. Mario non riusciva a cogliere tutti i discorsi. Appena si avvicinava a un gruppo in compagnia di Berto o solo, i canottieri tacevano o sviavano il discorso. E da più parti, in quei momenti, mentre qualcuno si metteva a fischiettare, li si osservava con sguardi indagatori e ironici, ambigui. Tuttavia ci fu un giorno chi insinuò in sua presenza di aver veduto Eneo sull'imbrunire in un punto deserto delle rive, nel tratto erboso tra i magazzini della stazione transalpina e il mare, dove anni prima si erano accampati i carrozzoni del circo, solo con un giovane marinaio. «Ma che?» intervenne subito un altro. «Non con un marinaio!» Era stato visto, non ricordava dove, con un signore anziano dalle scarpe di daino. «Parla sempre dell'America», commentò il canottiere magro mentre tutto il crocchio sghignazzava. «Ma con le sue doti potrebbe fare fortuna anche qua.»